stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una testa di cazzo internazionale. Stiamo parlando, stiamo parlando. Stronzo che non sei altro. Ma che dici? Ma che cosa stai parlando? Ma una volta facevi il giornalista anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Giuseppe. Ciao Giuseppe, siamo con Carmine, vieni con noi. Giuseppe, 2-1 Hai capito o no Giuseppe? Ci mancavi solo tu, Giuseppe. L'Italia è una merda, sono andato in Spagna, non c'era un cazzo di extracomunitario in mezzo ai coglioni che cagava e pisciava nelle aiuole, non ce n'era uno. Qua siamo pieni, qua ci cagano il cazzo e ci cagano pure nella strada. Venite a Messina. Allora, noi neri non ti chiamo l'utilità, sono i tamassi negri. No, io ti chiamo negro tranquillamente. Fate denuncia, Ma io non ti guarda, voglio io ti denuncio, Ma non ti voglio mica offendere a chiamarti negro. Paco negro di il negro di. Ma io lo dico in senso positivo. Guarda, denuncio, guarda. Ma guarda, non puoi che denunci cosa? Non ti sto dicendo. Guarda, io ti denuncio, Ma non ti voglio insubare, sei impazzito. Bravo. Ma perché? Mi piace perché comunque argomenta in modo civile. Grazie Paco. Bravo. Buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera ai carnivori, Giorgio Calabresi, che è presidente del Comitato Nazionale di Sicurezza Alimentare, Giuseppe Cruciani, autore di un libro per la Rete SEO, I Fascio Vegani, Libertà di Cibo e di Pensiero, e Gianfranco Vissari, che non vi devo presentare. Loro difendono la libertà anche di mangiare, infatti la dedica del libro è agli animali che ho mangiato, li ho amati da vivi e nel piatto, grazie. Giuseppe Cruciani. Allora, la zanzara qui, la zanzara di là, la paradiso, come fa? Parenzo, posso chiederti un favore? Mi ridai il pistolino che ti ho dimenticato a casa tua 7 anni fa? A te in Lombardia ci frequentavamo ed eravamo amici intimi dietro le quinte. Ciao Parenzo, sembri un panda, ti amo! Pronto? Questa è Radio 24, vero? Che batti! Cosa da ridere, una cosa indegna, montaggio indegno. Però vedi anche come le parole più turpi, con quella musica straordinaria che ieri ti abbiamo visto, ti abbiamo sentito, ti abbiamo visto argomentare con un linguaggio, amici miei, vagamente diverso da quello che viene utilizzato qui ogni sera. Dalle 18. Non è volato un cazzo in 2 ore di trasmissione, non ne abbiamo sentito uno, abbiamo visto un maggiordomo! E tu non ti apriva le porte lì di Porta a Porta, appunto, benissimo, ma non hai chiesto. Buonasera al pubblico di Porta a Porta, Giuseppe Cruciani, benvenuto. E quel maggiordomo che apre la porta, non gli hai chiesto con quali soldi viene pagato ciò con i miei, col canone? Lo hai fatto una grande battaglia di libertà? No, non gliel'hai detto a quel maggiordomo? Che cazzo apri quella porta, maggiordomo? Chi ti paga? Te non ti sei alzato a fare questo? No, hai fatto allora, ragioniamo, la corna. Buonasera, tutto pagato, tranquillo, benvenuti. Vissani, come sta? Hai finito questa tua... Hai finito? Per ora chiederemo conto. I soldi del canone viene pagato quel maggiordomo. Chiederemo conto. Allora, ragazzi, voglio fare l'elogio qui. Sì. L'ho fatto più volte di Vittorione Sgarbi. Ragazzi, ieri sera mi ha fatto godere. Mi ha fatto venire. Dico la verità. Dove? Meglio quello che ha detto Sgarbi ieri sera, che io più modestamente qui alla radio avevo già detto una decina di giorni fa, sui morti del comunismo rispetto a quelli del fascismo. Sento? Aspetta, adesso ti sei sfogato. Fai parlare me, per favore. Oppure no? Allora. Ripeto, mi ha fatto venire meglio Sgarbi ieri sera che una serata in un locale dove ci sono tre mignotte intorno. Devo dire la verità, molto meglio Sgarbone, molto meglio Sgarbone. Sentitelo contro Vauro, ho goduto. Viva Vittorio, sempre così ti vogliamo, vai! Comunista, che è il partito da cui nasce poi quel segmento che oggi si chiama PD, fa riferimento a un dato un po' più pesante di questi che al caffè, al bar, fanno esaltazione, battute idiote. Parlo della Corea del Nord, che è una minaccia globale al mondo e alla civiltà con le testate atomiche, che non sono idee, sono armi che partono. Certo. Non capisco perché contro quel mondo comunista non c'è la stessa intransigenza. Ed è attuale, posso parlare, è di oggi. Insieme a Cuba posso parlare, i diritti umani non sono rispettati al massimo grado a Cuba e in Corea del Nord. Amnesty International ha indicato che il livello dei diritti umani più basso al mondo è in Corea del Nord, caro comunista. Quindi discuti di quello, parla della tua famiglia, non attaccare quattro comici ridicoli al bar con l'Ambrusco. Non sono quattro comici ridicoli, c'è la pericolosi, c'è la bomba atomica, c'è la violenza, lì c'è, parla di quella. Che si può rispondere. Lotta contro la Corea del Nord, lotta contro il comunismo. Posso sentire, scusate, voglio sentire, io voglio sentire Vauro sulla Corea del Nord. Voglio sentire Vauro. Il comunismo oggi è molto più minaccioso del fascismo. Hai detto chi è orgoglioso di essere comunista? Sono orgoglioso di essere un comunista italiano. Perché i comunisti italiani della resistenza e dopo con le leggi sul lavoro hanno fatto sì che questo paese fosse talmente democratico che può rimanere le tue carte pure tu. Uccide, e lo devi ai comunisti italiani. Vergognati, buoni, comunista, vergognati, sì. Altro che Vittorio, fascista, vergognati tu. Calma, non si capisce niente. Sono ancora più orgoglioso di essere comunista quando faccio sbavare gente come te. Va bene, compagno Sgarbi. Allora, scusa, ma facciamo sei un orgoglioso di essere un criminale, sei orgoglioso dei criminali, sei orgoglioso dei criminali, degli assassini, di loro sei orgoglioso. Va bene. Sono orgoglioso di Enrico Berlinguer, che tu non puoi neanche nominare, hai capito di chi allora. Sono orgoglioso? Di Enrico Berlinguer. Fate parlare anche noi. Scusate, allora, ora riporto l'ordine, calma. Scusa, ora gli parte un embolo però a Sgarbi. Un attimo, Sgarbi. Sgarbi, ascolta, te ne faccio un cazzo. Vittorio. Comunista. Calma. Sì, lo so. Beh, amici miei, dai, ma Sgarbi ha pianamente ragione. Ma cosa c'è? Più di 100 milioni di morti in tutto il mondo e ancora l'altra. State a rompere il cazzo il per quattro deficienti che fanno le statuette. Non è dai. Stato un problema dell'Italia, questo non hai capito. Ma, anzi, i comunisti non è italiani stato hanno un problema dell'Italia. No. Non è stato non un è problema una dell'Italia. Dittatura comunista l'Italia, è stata una dittatura fascista. Adesso guardi in all'Italia. Italia, i comunisti hanno liberato l'Italia dai fascisti. Adesso è un guardi, po' il contrario. Guardi all'Italia tu. Ma volete non guardi riscrivere al mondo. La storia? Ma che c'entra Kim Jong-un vergogna, e Fidel dai. Castro con l'Italia? Sei una vergogna. Nulla. Sei una vergogna. Vogliamo parlare qui dell'eurocomunismo di Berlinguer? Meglio di no. Dai, vogliamo su. Parlare di chi ha firmato la Costituzione italiana? Allora, non è tutto. Sallusti contro Vauro. Guarda, per me è un criminale di merda. A casa loro, aiutavano a casa loro ai tempi del fascismo. Duce è stato forse fra i politici italiani quello più amico di quella gente lì. Ma a parte, pensa se li stavano sul ma cazzo, certo, esattamente. Perché l'antifascismo applicato come lo stai applicando tu diventa fascismo. Ah, cioè, ricordare il negare la storia, il potere della storia sono ricordare le stragi, leggi libri di Panza, a dichiarare guerra all'Etiopia, all'Eritrea, alla Somalia, che abbiamo gasato bambini, donne, fatto delle tremende stragi in quei paesi. Ma cosa c'entra? ma allora diciamo che sono vere anche le stragi dei partigiani, che sono vere le stragi di Stalin. I partigiani hanno portato la democrazia in questo paese. Uccidendo e violentando una bambina di 13 anni a cui ancora oggi è negata una piazza. Allora, va bene. Lei sa benissimo, meglio di me, che leggi quella di vicenda di panza, orribile leggi non di è panza. Mai stata accertata né chiarita. Allora, Mauro sta dicendo che la bambina, quella di cui si parlava la scorsa settimana, che vogliono mettere la lapide, lo stupro di quella bambina non è accertato. Al contrario, è accertatissimo. E il signor Mauro dice anche che Panza si è fatto ricco col revisionismo. Signor Mauro. No, quello di Panza non è revisionismo, Mauro, sicuramente. Sono episodi, Mauro, che però non mettono in cattiva luce, senti, l'esperienza della resistenza. Senti, Mauro. Dai. Senti, Mauro. Panza si è fatto ricco col revisionismo. Allora, sì, ma anche tu ti sei fatto ricco con le tue vignette. Tu ti sei fatto ricco con le tue vignette. Vogliamo fare a scambio. Allora, adesso ti faccio sentire, caro Davide, il presidente del Senato Grasso, sì, il quale chiede a nome degli uomini, oltre che a nome degli italiani, sì, scusa alla bambina di 15 anni che è morta perché il l'ex compagno della madre, sì, sì, della madre l'ha le uccisa, ha sparato, sì, l'ha uccisa, sì, sì, sì. È una roba ridicola. Molto bello, questa cosa di Grasso. La seconda carica dello è Stato. Una roba, posso dirlo? È una roba ridicola. Si è una conferma... roba altamente ridicola. No, no, no. Io ho grande stima di Grasso. La seconda carica, no, dello Stato si conferma veramente, aspetta, una persona, aspetta, allora, andiamo per degna ordine di ricoprire quel ruolo. Ordine. Quindi c'è... ringrazio Grasso, sì, per questo. Aspetta, non hai ancora sentito un cazzo. Aspetta un attimo. Ma come a prescindere? A prescindere, no, tu devi ascoltare prima. No, l'ho letto comunque. Ma non hai letto nulla. Allora, visto, ascolta queste cose di Grasso. Sentiamo, sentiamo. Qui c'è un signore, un matto, quello che è un assassino, il quale ha ammazzato, poi si è anche ucciso, ha ammazzato oltre che sì, la ex compagna, credo anche la figlia. Sentite le parole di, sì, Grasso. A nome di tutti gli uomini ti chiedo scusa. Tutta una vita davanti, ma un uomo ha scelto di spezzarla con una violenza inaudita. Purtroppo non sei la sola ad aver avuto questo terribile destino. Tante, troppe donne sono morte o sono rimaste profondamente segnate da violenze, discriminazioni, molestie, stupri. Scusateci tutte. È colpa nostra, è colpa degli uomini. Non abbiamo ancora imparato che siamo noi uomini, a dover evitare queste tragedie, a dover sempre rispettarli. Allora, posso dire che in questo caso la questione degli uomini e delle donne non c'entra assolutamente nulla? Cioè, tu da uomo devi chiedere scusa a questa bambina, alla famiglia, alla ragazza morta? Ma è un modo di dire, no? Ma non c'entra niente gli uomini. Dire, gli uomini non dire... c'entrano nulla, niente. È pura retorica. Gli uomini, in questo caso il famoso femminicidio, l'uccisione delle donne, non c'entra niente. Nulla, assolutamente zero. Gli uomini devono imparare. Ma sì, ma ci sono tante cose da imparare, certamente. Ma non è che a nome di tutti gli uomini... Io sono un uomo, lui era il presidente del Senato, e non mi sento di chiedere scusa... No, ma è un modo qua di dire, no? Tu è un modo senti, di dire, tu evidente. Ti senti da uomo di chiedere scusa? Beh, devi sì, chiedere scusa? No, devo chiedere personalmente, come David Parenzo, non devo chiedere scusa. No, da uomo devi chiedere scusa a questa ragazza forse morta. Forse da uomo. Ma cosa? Forse... Ma quello non c'entra niente, gli ha sparato, è un criminale, basta. Cosa c'entra l'uomo e la donna in questo caso? Sai, l'uomo, il maschio, fa sopraffazioni alla donna. No, ma vuoi continuare con questa retorica? Beh, no, ma è vero, però. Vuoi continuare con questa retorica ridicola? Cioè, è insito purtroppo nell'uomo essere una bestia e in qualcuno non controllare i propri istinti, ma io non ho mai visto donne violentare uomini, ho sempre visto il contrario. In questo caso non c'entra la violenza, gli ha sparato. No, ma voglio dirti, la violenza sulle donne, io ho sempre visto uomini far violenza, ragazzi, sulle donne, dai, mai il contrario, quindi dai, vuol dire che c'è qualcosa, come dire, di naturale, di terribilmente, ma non c'entra niente in questo caso, ma non c'entra nulla in questo caso, gli ha sparato. No, perché, quello, ma tu hai mai visto donne far violenza sugli ma no, uomini? Ma gli ha sparato, allora basta, non c'entra niente in questo caso. Comunque, mamma mia, più Natania meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo! La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. San Gennaro, mio cavaliere, pensa a Cruciano, puttaniere. San Gennaro, bello guaglione, pensa a Parenza, o gran coglione. Allora, vogliamo parlare della vogliamo storia. Vogliamo dire qualcosa dei 5 Stelle, vogliamo cosa, dire qualcosa di dire Rimini, della convention di Rimini, no, del caos. Del voto online. No, non me ne frega niente. Del sistema russo. Io la parola russo, solo a leggere del sistema russo, il sistema di voto che si inceppa, si blocca e l'online. Vado ai matti solo a leggerle quelle cose lì, le devo leggere per il sistema russo. E poi dicevano delle primarie del PD e delle ancora, file, prendevano per ieri. Il culo. No, bisogna ieri. Ripeterlo ogni giorno. Il sistema russo, il click, l'online. Ma dai. Editoriale di Parenzo sul sistema russo e 5 Stelle. Breve, come al solito, anglosassone, uno stile mai di parte, uno stile, no? Sempre molto sobrio. Allora, sì. Ovviamente mi sono scordato quello che devo dire. No, Fico. No, no, allora no, diciamo no. Una cosa su Fico a questo punto. No, Fico fermo. È stato estromesso. No, no, bisogna dirlo. Bisogna dirlo fino alle 21. È stato estromesso dalla Kermesse. Ma la gente che cazzo allora gliene frega? Allora io dico, Fico, sei benvenuto alla Zanzara. Vieni ogni giorno qui. Vogliamo no, sentire qui. Sì, l'intervento che avresti dovuto fare dal palco di Rimini. Ti hanno buttato fuori, non si capisce perché. Fallo alla Zanzara. Libertà, radicali, italiani candidano subito Fico. Lo dico dal dico dal cielo, io Marco Pannella dico, Fico ti candidiamo, non c'è il partito, non c'è la lista, ma ti candidiamo noi Fico. Hai finito? Lo sai che a me di questa vicenda di Fico non me ne frega assolutamente nulla, invece. No, a nulla, chi partecipa alla convention dei 5 Stelle non me ne frega un cazzo, no, brutto, chi sta brutto. Sul palco, chi non sta sul palco, zero, me ne brutto, frego delle brutto, relazioni brutto, tra brutto, Fico brutto. E Di Battista, dei rapporti tra Fico e Di Maio, ma non me ne frega nulla, zero, interessa solo te e quattro stronzi, chiaro? Mi pare chiaro questo? Non me ne frega niente. Oh, ecco l'altro. Allora, i Barboni e il Vaticano. Sì. Ma vi pare normale che il Vaticano, dopo tanto predicare, dopo tanto dire, eccetera, le guardie svizzere, non so chi, la gendarmeria, liberano per questioni di decoro e anche di sicurezza, dicono sicurezza, ovviamente un argomento inesistente, di decoro il porticato del Vaticano dai Barboni? Ti pare una cosa normale? Ti pare una cosa normale a te? Ti pare una cosa non, normale? Non è Fico quello che hanno fatto, effettivamente. Bene polizia, Giona, tu di tu ieri non dormire qua, vai via di là, ok vai via, io prendo la mia cosa, rubami, buttami tutte le mie cose, coperte tutti questi tutti. Io non ce l'ho problema, ma quando tu parli mercoledì e domenica, tu, scusami, tu solo parlare. Questi erano due clochard cacciati che giustamente dicevano, se qualcuno ha capito, che Papa tu solo parole mercoledì e domenica, poi noi cacciati via non possiamo più dormire qua sotto, vergogna per la Chiesa, ma questo è inutile dirlo, no? È inutile dirlo, vergogna per questo atteggiamento che è di un'ipocrisia spaventosa, un'ipocrisia spaventosa. Va bene ragazzi, dove andiamo? Simone da Varese, vai Simone, vai. Ciao ragazzi. Dimmi. Allora, io volevo tornare sull'argomento di ieri e volevo dire che sto con la signora che ha inveito contro quelli sul pullman. La mitica che rosa, non avevano sì. Il biglietto. Rosa, sì, certo. Sì, rosa, sì. E volevo dire che ci sono due pesi, due misure. Io prendo il pullman, diciamo, per lavoro tutti i giorni, da 3 anni. Sì. E volevo dire che ne vedo tanti di questi che non pagano. Sì. Io ho dimenticato di rinnovare l'abbonamento e il controllore è sempre solito. Sì. Ho preso 35 euro di multa. E giustamente, se qualcuno non paga e fa anche lo sbruffone, si incazza. Cioè certo, Simone si incazza. Non solo non pagano, fanno gli sbruffoni perché sanno che non è di non essere sanzionati. Ha torto Simone? Parenzo, ha torto Simone? Ma Simone cosa c'entra? Se vuole, Simone, non è che se uno non paga il biglietto deve essere sanzionato. Ma la signora Rosa si è semplicemente incazzata, come ti ha spiegato. La signora Rosa non è un simbolo di libertà. Io ho sbagliato a non pagare il biglietto, ci mancherebbe. Io non dico che Io ho fatto già bene. Detto altre volte di questa proposta che ha scatenato. È una proposta pacata da moderato, sì. Per i migranti, carta per del viaggiatore. Per i richiedenti asilo devono avere la carta gratis del viaggiatore, ovviamente non in prima classe, ma anche sui treni. Ci devono avere il diritto alla mobilità. Ma quale diritto alla mobilità? Diritto alla mobilità, a muoversi, a cercare lavoro, a integrarsi, a capire. Se tu anche li sanzioni quando si spostano, cioè praticamente Parenzo dice i migranti, i richiedenti asili, aspetta, i richiedenti asili che arrivano qua, richiedenti asili, sì, no? Sì. Hanno diritto, siccome devono trovare lavoro, si devono integrare, cioè hanno diritto per un tot di tempo ad avere gratis, per tutta ad avere la durata gratis del permesso in cui viene attesa di avere, certo, non c'è dubbio, sicuro, guarda, al 100%. In questo modo tu disinneschi anche quella violenza, quelle dinamiche sociali. Un argomento molto popolare, mi sembra, un argomento molto popolare. Ma frega niente, ma cosa c'entra se è popolare o non popolare? Non mi interessa di solleticare la pancia come fai tu del paese. Non mi interessa niente. Il 24 settembre la Germania va alle urne. Secondo tutti i sondaggi, la CDU di Angela Merkel vincerà sull'SPD di Martin Schulz. Ma sono molte le implicazioni per il futuro dell'Unione. Un voto che coinvolge 82 milioni di tedeschi e riguarda 500 milioni di cittadini europei. Il viaggio verso il voto tedesco. In onda tutti i giorni su Radio 24 e su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presento La Zanzara. Si sciolto, si sciolto San Gennaro, tutti dietro. Si sciolto, ma la vista Maria si è sciolta. Ma porca puttana, ma ragazzi, ma ancora. Ma nel 2017 siete ancora lì che credete al sangue di San Gennaro, figo. Quanto cazzo di sangue c'ha sto San Gennaro? Quanto cazzo deve averne ancora perché finisca questa puttanata del sangue di San Gennaro che si sciolta? E la chiesa che si presta a queste stronzate. Cioè, sentir parlare un napoletano e sentir parlare un azteco di 2000 anni fa non cambia un cazzo. Niente, non cambia niente. È la stessa identica con i riti magici in chiesa. Figa, ma non è normale. Ma poi ne parlano i telegiornali. Cesare Buonamici al telegiornale: oggi si è sciolto il sangue di San Gennaro a Napoli. Ma figa, ma vi rendete conto che figura di merda facciamo col mondo? Cioè, il mondo pensa che noi italiani siamo come cazzo le tribù dell'Amazzonia, figa, dei rincoglioniti che credono ancora a ste stronzate. Dai, vi prego, togliete sta roba del sangue di San Gennaro che facciamo tutti una figura di merda micidiale. Dai, toglietela, vi prego, toglietela. Dai, via, via San Gennaro, dai, ciao, dai, via, toglietela. When I close my eyes. Questo è il numero uno assoluto. Questo scherza, è il numero uno. Scherza coi fanti, ma lascia stare ma i santi. Non si può nemmeno criticare San Gennaro. Ah, secondo San Gennaro, non si può criticare. Gennaro, questo è il numero uno. L'ho eletto a mio numero uno assoluto. Assoluto. No, ma ci vuole anche rispetto per queste credenze, sai? Poi non sono non le mie. Non si può prendere in giro. Non si può prendere in giro adesso. Mi sembra ingeneroso rispetto a milioni di fedeli. Ti segnalo che la tua amica Bonino dice che non è contenta che sbarcano di meno in Italia gli immigrati. No, certo, e lo si dice ieri, bravissima, perché sbarcano di meno ma muoiono uguale. Ha fatto un ragionamento molto interessante. Signora certo. Bonino, non sono contenta campagna che sbarcano radicale, di meno. Campagna radicale, ero straniero, firmala anche. Vabbè, tu, io l'ho firmato. Nemmeno se mi obbligano. Nemmeno se mi obbligano. Per l'abolizione del reato di immigrazione, ma ti dico di più, ho fatto anche il video, ce lo vedrai tra poco, come Bonino, testimonial della campagna. Bonino. Sottoposti a violenze, stupri quotidiani, sì. Siamo in condizioni veramente disperate. Io non riesco a essere contenta del semplice fatto che sbarcano in meno. Mi dispiace. Certo. È tornato il governatore del mondo, De Luca. Adesso si sono fatte le primarie, faccio fatica a chiamarle primarie di che? Di chi? Ora, uno immagina che le primarie si facciano fra persone più o meno credibili sulla base di programmi distinti. Lei ha notizia del programma dei candidati alle primarie delle 5 Stelle? siamo alle prese con questa nuova proposta che è il Rosatellum. Beh, almeno sono, diciamo, proposte enologicamente interessanti, diciamo. Almeno questo sarà riconosciuto. Speriamo, ovviamente, a me, noi poi dalla Campania siamo particolarmente interessati a una proposta del mio amico Fiano. Qui abbiamo dei bianchi eccezionali, in modo particolare il Fiano, quindi pensiamo che sia di buon auspicio. Allora, caro David, ti voglio far ascoltare un ristoratore, non era al massimo della forma, il governatore, sì, del mondo, non era al massimo della forma, un bar di Reggio Emilia che, sì, ha deciso di non assumere gente di colore. Scusami? Di non assumere gente di colore. E ma in che anni siamo? 2017 mi sembra. 2017. Ma questa notizia è di oggi oppure allora, è del 1938? Lui lo ha detto qualche mese fa. Sono andati, però sembra del 2017. Sì, sono andati quelli di Agorà. Io posso dirti una cosa, ognuno ha il diritto di assumere il proprio locale chi cazzo vuole. Non c'è dubbio, ma non può dire che non assume dei immigrati. Cioè, nei bar, in alcuni ristoranti, assumono solo donne perché le donne dicono portano clienti. È la stessa cosa, perché non condanniamo questi qua allora? No, nessuno, diciamo, li condanna. Facciamo paragoni. Se uno dice non voglio i neri perché secondo me mi rovinano la clientela, sarà una cosa elegante, per me è una stronzata. Ma cosa, uno non ha il diritto di assumere nel proprio ristorante chi vuole? Ci siamo abituati a tutto ormai, veramente. Sentiamo, ci siamo assuefatti. Sentiamo. Io credo che per la mia attività assumere un uomo di colore sia deleterio, creerebbe una perdita di denaro enorme. In un locale di gente di colore vanno persone di colore. Io ho un bar di una clientela, non dico di razza ariana perché non è di razza ariana, però ho un genere di clientela che non vedrebbe di buon occhio un uomo di colore. Bisogna capire cosa vuol dire razzismo. Allora, razzismo com'è realmente la parola razzista? No, non sono razzista. Razzista perché adesso gli extracomunitari se ne approfittano? Sì, sono razzista. Allora, andiamo a Federico da Prato. Federico da Prato, vai Federico, che credo che ci abbia chiamato prima, ci abbia mandato un messaggio perché vuole raccontare la storia di sua figlia multata su un autobus qualche tempo fa. Ciao Federico, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, che è successo a tua figlia? Allora, mia figlia aveva 14 anni, è successo un paio di anni fa, è andata tranquillamente come tutte le bambine con il biglietto per la prima volta in vita sua in autobus, ha comprato un biglietto con la sua amica per andare a studiare a casa sua, a metà percorso sono entrati dei controllori, hanno controllato il biglietto e le hanno detto che quel biglietto non andava bene perché la tratta che lei stava facendo era interurbana e invece aveva comprato un biglietto per una tratta urbana. Vabbè, per una differenza di 50 centesimi. La differenza era 50 centesimi, benissimo. Il controllore le ha fatto la multa? No, le ha fatto la multa, l'ha fermata, l'ha identificata, l'ha chiesto tutti i documenti, nome, cognome, eccetera, eccetera. Siccome non aveva con sé i documenti, ha chiamato me, ha fatto scendere la figlia dall'autobus, 40 euro di multa, più il rimborso dell'euro 70 del biglietto che c'era per la tratta. Tu l'hai pagati quei 40 euro? Sì, in spiccioli. Hai portato gli spiccioli? Ho portato una sacchettata di spiccioli. Anche perché non era sola sull'autobus, insieme a lei c'era una giovane fanciullina rom che dal controllore è stata semplicemente fatta accomodare fuori dall'autobus, senza ovviamente nessuna identificazione. Arrivederci, grazie. Io l'ho pagata. Questo cosa dimostrerebbe? Dimostra che una ragazzina di 14 anni è stata multata per 40 euro e immagino sia rimasta anche un po' colpita. Traumatizzata. Per due anni non è voluta montare in auto. Mamma mia, un trauma infantile. Ma da multa da autobus. Ma sei veramente vergognoso. È un trauma da multa. È la prima volta che lo sento. Trauma da multa? Si chiama trauma da multa questo? Aspetta, senti. Siamo seri, però. Io sono molto più serio di lei. Io faccio il medico. Siamo seri, siamo seri. Lei pensa che una bambina fermata e fatta scendere da un autobus in mezzo a una strada semplicemente perché ha sbagliato di comprare il biglietto da 1,20 a 1,50 è stata cacciata dall'autobus e ha dovuto fare un pezzo di strada a piedi, umiliata davanti a tutti? Ma umiliata, io ho capito. Come se fosse una ladra a cui avete denunciato, certamente. Allora, sa che cosa è stata la risposta? Qual è stata la risposta dell'azienda? Non le possiamo fornire il numero perché sulla sigla non c'è sulla multa, non c'è la sigla del controllore. Beh, è facile risalire su chi era in quel autobus in servizio. Al di là di questo, se lei pensa che siano stati lesi i diritti di sua figlia, ha tutto il diritto di adire in tribunale. No, lui ti ha detto che la bambina non ha più avuto il coraggio per un po' di tempo di salire sull'autobus, giusto? Assolutamente corretto. Benissimo. Allora, mi dispiace, ma questo è la prima volta. Lo vuoi valutare sento, tu? Lo vuoi ho valutare detto, tu? È la prima volta che sento una storia di trauma da multa. Va mi bene, dispiace, vado a studiare visto che io ho no, tanti amici riconosco. Che sono psicologi della infantili. Chiederò a loro, psicologi infantili. Chiederò prima di esprimere dei giudizi. Io sono chiederò. Abituato. Però la cosa è un'altra. Ecco, la cosa è il ROM. Il ROM, giusto? Che invece no, io il ROM tema è ricorrente. Il ROM è semplicemente stato la. Io non ho pagato la multa, non ho uno c'è da incazzarsi, alcuni le pagano, altri se ne fottono, diciamo la verità, uno un po' si incazza o no, ma non è così strano incazzarsi, fosse stato un ROM, fosse stato ma un altro, mica difendo alcuni una ROM siccome non possono pagare non pagheranno mai, scendono dal treno impuniti o dall'autobus, quello che è, altri invece come ragazzi. Ma io mica ho difeso questo, mica, basta. Difendo la ROM che non ha pagato. Ma poi non è la fine del mondo, sono piccoli casi che dimostrano come questi spesso, i ROM e altre persone, fanno il cazzo che vogliono. Lei sta difendendo, però scusi, sta difendendo il controllore che non l'ha multata, perché non l'ha identificata come mia figlia. Così sbagliato. Come è stata identificata mia figlia. Ha sbagliato, la, non la farlo, ROM il non è stata identificata. Se lo prende col controllore, però, se la prende col controllore, infatti. Ma io infatti me la sono presa con il controllore. Benissimo, giusto. Ho pagato la multa come? Con l'unico modo che avevo legale, però per prendergli un po' per i fondelli. Riempendogli di spiccioli e costringendogli questo a fare benissimo. Un'ora, benissimo un'ora a contare. A contare. Benissimo. Ciao Federico, ciao. Buona serata. Saluti. Allora, Maurizio, provincia di Firenze, vai. Sì, ciao. Dimmi Maurizio. Dunque, senti, ti volevo dire che all'inizio della trasmissione ho sentito che le donne subiscono violenza da parte degli uomini e basta. Ecco, sì. Io sono probabilmente un caso. Sì, come sei? Con l'auricolare, col via voce, come sei? No, normale. Non sento una mazza, comunque sento un rimbombo, sento un rimbombo. Vai, racconta. Lo sento anch'io. Dimmi. Nulla, io senti, allora mi sono sposato nel 2015 ad agosto allora? E a febbraio del 21 febbraio mia moglie mi ha buttato fuori di casa, mi ha picchiato, certo, sono dovuto andare al pronto soccorso. Non mi ha reso tutta la mia roba che io c'avevo. Questo lo dici tu che sei stato picchiato. Lo dico io perché poi è chiaro, ci sono anche gli avvocati ora lì in mezzo. Io ho fatto la denuncia. Cosa ci vuoi cosa dire? Ci interessa cosa questo? Ci vuoi dire? Che le violenze non sono solo dalla parte degli uomini? Bravo, da parte degli uomini probabilmente fanno più pubblicità. E da parte amico delle mio, donne però invece... qui stiamo parlando di stupri, non è che ti ha stuprato tua moglie. Appunto. Cioè stiamo, le violenze è chiaro che le commettono tutti, diciamo in maggioranza magari gli uomini nei confronti di donne male, per vari motivi. Meno male. Ma gli stupri non è che... Cioè, sei stato stuprato da tua moglie? No, stuprato no, picchiato e vabbè. Picchiato come? Cosa vuol dire picchiato? Picchiato, che ti ha dato? Uno schiaffo, un calcio? Che ti ha dato? No, ma da graffiato, cazzotti, schiaffi. Lei capisce meglio di me, mi dispiace per quello che ha subito, che uno schiaffo dato da una donna a un uomo ha una potenza. Questa è una stronzata. Dato da un uomo a una donna ha un'altra forza. Ma che vuol dire? Ma sempre schiaffo è? No, che ne sai in termini di forza. Quindi che vuol dire? Che sono carezze? No, non dico che sono carezze, ma dico che la violenza che un uomo può perpetrare nei confronti della donna è infinitamente superiore. Cioè uno schiaffo di un uomo che non va mai fatto, dato a una donna, può essere... Ma io infatti lei probabilmente mi provocava apposta per farmi reagire. Io non ho reagito perché se reagivo poteva succedere un altro femminicidio. Maurizio, Parenzo ha detto una stronzata. Gli schiaffi sono schiaffi, non c'entrano niente. La potenza, lo schiaffo di un uomo rispetto a quello di una donna è completamente diverso. Ma assolutamente. Ma dipende dalle donne. La forza fisica dipende che ha uno... dalle donne, dai, su, fermi. Ho capito, se disposi Bud Spencer, è evidente. Basta una che va in palestra. Generale... Basta una che va in palestra. Sì, vabbè, dai. Dai, via San Gennaro, dai, ciao, dai, via. Togliete. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Enzo, ti vai preparando a sostituire a Vespa. Dice Vespa fa conto con amore. Vuoi fare il nuovo Bruno Vespa? Ma non lo puoi fare il nuovo Bruno Vespa, perché Bruno Vespa si è buttato sempre con chi c'era al governo. Dico, andate al governo c'è Gigino Di Maio. Tu come fai a chiettarti i 5 XL? ti vengo a scippare la testa, poi sta a Roma, poi sta a Milano dove minchia sei, poi sto la sede di Radio 24, ti scippa la testa e ci gioca a pallone con Cruciani. Quindi stiamo attenti a non mi rompere i coglioni, Parenzo. Per quel coglione di Parenzo invece non vale neanche la pena di riaccendere almeno uno solo di quei forni benedetti. Beh, questo è grave, questo è molto grave. Vuoi il numero? 1936 Woodcock, dove sei? Fa anche rima e non era voluta. 1936 Woodcock, dove sei? Notizie di reato in continuazione. Qui ti do gli indirizzi di chi partecipa a questo caravanserraglio. Giuseppe Cruciani, nato a Roma, forza, scusa. Residente a Milano. Riccardo Poli, nato a Verona il 24/12/1982. Alessandro Longoni, nato a Mariano Comense. Matteo Ramelli, 11 luglio dell'89, Pietro Lacorte, regista, 16 gennaio del 78, Andro Mercur, più vecchio di tutti, Trieste, 14 gennaio 63, hai date di nascita, luoghi, residenze di chi partecipa alla costruzione sistematica di diffamazioni continue, reati che qui vengono commessi. 1936, Woodcock, dove sei? Penso, tu sei il più grande culatore del mondo. 1937, altro reato commesso. Woodcock! Woodcock! Stai zitto, ciucciacazzi! Woodcock! Woodcock! Io fa sta male, sento dalla voce che sta male. Allora... Woodcock! Ti prego, batti un colpo, Woodcock, Viale Monterosa, la Zanzara, dalle 18.30 alle 21. Vengono commessi reati, ti ho dato i nomi delle persone, dei collaboratori di sta baracca, Woodcock! Allora, ragazzi, ho ricevuto oggi un plico. Che succede? Che succede? Levategli il vino. Allora, è la rantolite seborroica. Allora ragazzi, ho ricevuto un plico da parte dell'amico Targetti, quel collezionista Targetti e venditore di divise dell'SS del PD. Ma non come aveva quello promesso, no, io lo sto mostrando adesso in webcam, ragazzi, voi che siete in macchina tantissimi non la potete vedere, ma ve la mostrerò bene nelle nostre foto sui social. Allora c'è una svastica sopra con l'aquila. Libro azzurro blu con scritto Adolf Hitler Mein Kampf. È una copia originale del Mein Kampf di Hitler. Vabbè, del 1925, edizione, vale economica, aspetta, edizione economica del 38, copertina blu con aquila della NSDAP al centro, usato, buono stato di conservazione, leggermente danneggiata, pagina 3, effettivamente vedo qui c'è tutta una scheda che accompagna, pagina 3 c'è un leggero danno. All'amico Giuseppe Cruciani, con stima e simpatia da parte di Alessandro Targetti, Adolf, che è il padre. Adolf. Qui questa roba qui mostrata in radio, mostrata in radio, la webcam, ma no, Mein Kampf, Adolf Hitler, tutto in tedesco, non ci capisco un cazzo, un'opera che ha anche un suo valore. Potrebbe essere considerata da qualche giudice, come no? Ma potrebbe essere, io la piazzo qui, potrebbe essere considerata, la piazzo qui per un'ora e mezza in webcam. Piazzatela, sai dove? Dove me la devo piazzare? Nel culo. Allora, potrebbe stare. potrebbe essere considerata ma non è così. Potrebbe essere considerata una propaganda non per il nazismo, come no? Così, sì, certo, assolutamente sì, secondo il signor Fiano. Eccola qui, non una copia originale del Mein Kampf. Bene, la stai esponendo ora? Assolutamente. La stai esponendo ora? La sto esponendo. La stai esponendo. La legge non è in vigore. Non è in vigore. 39 preventivamente Woodcock, puoi per cortesia fare qualche, ma non occorre neanche intercettazioni, non occorre, perché è tutto online, è tutto in diretta, quindi non devi neanche intercettare, costa poco l'inchiesta, ti prego. Va intervieni bene. Milo mi sembra, Milo. Chi è Milo? Gianna Milo conosco io, Gianni Milo, sì. Pellegrino da Napoli. Pronto? Dimmi Pellegrino, dimmi. No, senti, io non sono credente, cioè non credo chi se ne frega. Tanti, non credo in niente, cioè non sono credente. Però, che disastro. Però questa cosa di San Gennaro, dello scioglimento del sangue di San Gennaro, per la religione cristiana che si basa su delle questioni assurde, la virginità della Madonna, Lazzaro che... cioè, cose incredibili che uno non... Vabbè, allora non ho capito, cosa vuoi dire, Pellegrino? Cioè, voi prima la Camorra e vabbè. I tifosi del Napoli sono troppo anti-giuventini e va bene pure questo. Non no, stare qua a fare questo casino. Qual è il problema? Qual è il beh, quella è la realtà o no? Sono tutte realtà. Io penso che voi veramente ve ne andate a cercare. Ogni giorno esce una novità. Tu credi in San Gennaro? Posso dire che San Gennaro è una buffonata? Lo posso dire come tante altre cose. Non lo posso dire che è una buffonata. Perché la religione cristiana che è una buffonata. Ma non lo può darsi, può darsi. Sono persone che soffrono. Senti, per me tutto questo rito va bene, d'accordo, tutto questo rito di San Gennaro, tutto questo rito di San Gennaro, il sangue eccetera, posso dire che è una buffonata? Posso dire che è una parodia? Posso dire che è una cosa ridicola? Non lo posso dire, va bene, allora non lo posso dire. Arrivederci. È una tradizione. Va bene, ci sono tante tradizioni, una volta facevano anche l'infibulazione, una tradizione. No, ma come si fa a paragonare? Ma che razza di paragone è, dai? Tu stai perdendo i colpi ultimamente, questo lo dici tu, può darsi. Pellegrini, che oggi dici delle cazzate incredibili. Ti abbraccio, Pellegrini. Io sono un tuo ma io l'ho sempre sostenuta questa cosa qua di San Gennaro come di altre cose. Non è mica la prima volta, è anni che lo dico che sono tutte buffonate, ma lo posso dire di tante altre cose. Ma io non ho rispetto per queste cose. Non c'entra niente il rispetto. Posso dire che è una buffonata. Non è che dicono devo andare a rogo quelli che vanno a fare però è maleducazione. È una buffonata la passerella dei politici. Quella ancora di più, quella ancora di più. Ciao Pellegrino, ciao. Ciao. Milo, provincia di Pistoia, dai, Milo. Chi è? Beppe Cruciani? Beh sì, fino a prova contraria sono io, sì. Oh, Cruciani, che fai? Mi dici paraculo e mi riattacchi, porca miseria. Ma io quando sono è stato? Sono il vegano, cazzo. Ma come ti chiami, scusa, esattamente? Bellini Milo, te mi chiami col privato. No, aspetta, stai tranquillo. Come ti chiami esattamente? Come ti chiami? Ma io guarda, sono nato tranquillo. Bellini Milo. Dunque, mi risulta qui dal tuo profilo che sei innanzitutto un bodyguard, un culturista. Che cosa sei? No, che cosa... per l'amor di guarda, io non fai io. Sono, che fai di mestiere? C'ho una palestra io. Hai una palestra, benissimo. Sei molto muscoloso, ti vedo, no? No, o sbaglio? Ci mancherebbe. No, no, allora. Vedi male, ti ci vuole gli occhali, beh. Può darsi. No, fermo, tu qui si può fare di tutto, ma non bestemmiare, chiaro? Cosa detto? No, io non bestemmio. Mi sembra che hai accennato una bestemmia. Comunque, vabbè. Allora, mi sembra di capire. Bellini Milo, questo sarebbe. Hai messo le mie foto su Facebook. Questo sarebbe l'illustre. Aspetta, fammi dire. Sì. Poi puoi dire quello che ti pare. Questo sarebbe l'illustre ospite di ieri sera, Porta a Porta. Quello che inveiva contro i vegani in mondo vegan. Come si chiama lui? Nazi vegani. Un personaggio che porta al lavoro tre teste d'agnelli in un cartoccio. Un coniglio spellato, eccetera. I nazisti per me sono altri. Un consiglio insignificante. Rifiuto un coniglio, penso. Insignificante. No, non credo un consiglio insignificante. Non ho capito. Ti piace il coniglio, Beppe? Molto, sì. Rifiuto della società viscido. Rifiuto della società viscido e putrido, vigliacco. Attento perché chi semina vento raccoglie tempesta. Questo lo diceva sempre mio nonno. Ma è un augurio di morte. Ma perché sarei un rifiuto della società? Non ho capito. Ma non lo so, quello ti devi guardare. Lo sai che devi. Ma io non mi sento un rifiuto della società. Ma no, ma l'hai detto tu. Me lo domandi a me. Ma l'hai scritto tu, rifiuto della società. Ma uno che va al lavoro con tre teste d'agnello ti sembra una cosa normale. Ma tu lo sai perché l'ho fatto? Lo sai perché l'ho fatto? Perché l'hai fatto? Perché voglio continuare a mangiare l'agnello, chiaro? Ma te puoi mangiare quello che vuoi? No, allora, io non vengo in palestra con tre hamburger di sera. Ma io faccio, ma io sto a casa mia, faccio. Mi prendono per coglione. E io sto a casa mia e faccio quello che voglio. Con tre teste d'agnello. Io sto a casa mia e faccio quello che voglio, chiaro? No, ma tu devi fare quello che vuoi. E sei tu che mi vuoi impedire, di mangiare. Sei tu che mi vuoi impedire di mangiare la bistecca, chiaro? Sei tu che me lo vuoi impedire. Beh, come no? Come no? Ognuno nella vita deve fare quello che vuole. Non mi sembra, amico mio, non mi sembra che la pensi così. Io se parlo con 100 persone e mi va al lavoro con tre teste d'agnello, per me non è una persona tanto. Perché ti posso dire? Poi è un pensiero mio, può darsi anche che io mi sbagli. Quello sicuro. Ci mancherebbe, io non quello sono sicuro. Ma chi semina, vento? La mattina alle 3 e mezzo mi faccio un culo così in palestra. Bene, chi semina vento? Chi semina vento raccoglie tempesta, cosa vuol dire? Questo ti devo parlare con mio nonno, ma purtroppo no, non c'è tua, più. No, per carità, mi dispiace che tu non capito, mi dispiace tanto, però ha mangiato carne tutta la vita. Tuo nonno ha mangiato carne tutta la vita, probabilmente. Non si è fatto mai problemi, tuo nonno. Avrà mangiato carne tutta la vita. Sai, bisogna evolversi nella vita, non si può rimanere, certo. E non si può rimanere, indietro, certo, non si può rimanere. Scusami tanto, ma tu mi dici paraculo e mi riattacchi. Ma questo è successo in un'altra telefonata, amico mio. Ma... No, lo so, ma mi dici paraculo. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Telefoni con il numero privato, Beppe, ma questo lo fanno bambini di 15 anni. Ma che fai, Beppe? Vabbè, non conosci il nostro lavoro, dunque sei semplicemente ignorante. Scusami, no, scusami, no, Milo, scusa un attimo. Quando scrivi Milo cazzo. Ma chi ti ha mandato a fare il culo? Ti manderò a fa apposta. Allora, qua leggo qualcuno che lo aspetta, no? Qualcuno che lo aspetta. Sì, Beh, ma che ti aspetto? Sì, sì. Io semmai esco con qualche donna, Ma scusa, quando uno è vegano scopa meglio? Sei vegano? Ma sai, quello non lo so, c'è qualche amica da presentarmi? Diverse. Dai, Beppe, usciamo, che ti devo dire? Me la fai provare poi? Ciao tesoro, ciao. Marco, provincia di Arezzo, vai. Marco, provincia di Arezzo, un cazzo. Marco, vai. Marco. Sera. Sì, mi senti? Sì, dimmi, dai. No, vabbè, Parenzo, come al solito, queste sinistre ipocrisie, il comunismo e cose che sono successe fuori dall'Italia, quindi non si può giudicare, il fascismo è successo in Italia e quindi va condannato. Beh, allora, certamente. Visto che... Certo, allora tutto quello mi che pare succede ovvio, fuori dal... è la nostra storia. Io ha ragione Sgarbi al 100%. Sì. Il comunismo ha fatto oltre 100 milioni di morti in tutto il mondo. Dovete smettere. Bisognerebbe, io non lo vorrei. Voi non sapete io nulla. Non lo vorrei. Il comunismo sono ci vorrebbe. Tante cose. Il comunismo sovietico. Scusate. Il comunismo europeo, quello sovietico. Dal verbo secondo Parenzo. Noi non ci sa un cazzo. Prego. Parenzo, la parola a sua eccellenza. Finalmente te lo spiego, caro Somarello, in 40 secondi. Sì, il comunismo. Fermo, caro Somarello. Te lo spiego in 40 Somarello secondi. Esiste, qualcuno che conosce perché esiste, non la conosco e quindi non lei ho è un Somarello perché ha posto male la domanda. Come lei, allora, come lei ben sa, sì, come lei ben sa, esistono diversi tipi di comunismo, perché c'è stato il comunismo sovietico, c'è il comunismo cinese, tutto il corso. Non voglio fare una c'è stato il comunismo italiano. Dovete stare zitti tutti e due. Chiudete i cursori tutti e due, per favore. Allora, le cose vanno chiarite al 100%. Allora, a me non me ne frega nulla. La falce e il martello è il simbolo di morte. Ah, esattamente come il fascio, simbolo di morte in tutto il mondo. Chiaro, hanno fatto 100 milioni di morte. In Italia, io non voglio nessuna legge, ma ci dovrebbe essere, se c'è una legge sull'apologia di fascismo, anche una legge sull'apologia di comunismo. Dei criminali in tutto il mondo. Le uniche dittature che rimangono in piedi sono dittature che si ispirano, dico, poi lascia perdere la pratica. Ispirano al comunismo, non allora al fascismo. Bisogna abbattere la su Cina. Questo non transisco. Dunque, ha ragione. Non mi interessa. È uguale, no? Sempre i criminali sono. Ma che, come criminali? Ma abbiamo, no, anche in Italia erano d'accordo con l'Unione Sovietica. Hanno firmato volevano la dittatura pure in Italia. Italiana. Dai, basta con questa storia. Hanno firmato la Costituzione italiana. Chi ha firmato la Costituzione come italiana? Voleva l'Unione Sovietica. Voleva l'Unione Sovietica. Il ministro della giustizia ha graziato pure i fascisti. Ha fatto pure l'amnistia per i fascisti. Basta discussioni storiche. Allora, in un comune c'è un signore, un comune, credo che si trovi in provincia di, ragazzi aiutatemi, in provincia di Spresiano. Dove si trova Spresiano? Tu che sei veneto? Ma provincia di Treviso, provincia di Treviso. Spresiano. C'è una strada piena di prostitute. Un signore della sinistra del Partito Democratico, credo che sia un ragazzo anche giovane, che si chiama Roberto di cognome? Signor Roberto, di cognome, non di nome, Roberto, Francesco Roberto, vuole andare oltre Nardella, cioè mandare un SMS alla moglie, alla famiglia del cliente delle prostitute, bene, un SMS per sputtanare il cliente delle prostitute. No, ottimo, mi pare un'ottima chiamiamolo iniziativa. Chiamiamolo questo imbecille, chiamiamolo. Sì, pronto? Oh, sto parlando con Francesco Roberto? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, salve. Cruciani, buonasera. Buonasera. C'è anche sono un suo ascoltatore. Sì, c'è bene. Anche il signor Parenzo. Eccoci, buonasera caro. No, vi ascoltavamo sempre all'università, io e i miei coinquilini, siete dei miti. Bene, benissimo, adesso grazie, vediamo. Grazie, ma eh, è meglio però leggere dei libri piuttosto che ascoltare questa trasmissione ogni orripilante. Tanto la sera. Lei vuole mandare gli SMS alle mogli dei clienti delle prostitute. Oh, ottima idea. Parenzo, ti appoggia, caro Francesco. Totalmente. Si manderei proprio messaggi video anche con le foto del marito con la prostituta. Come potrebbe funzionare secondo te, Francesco, questa cosa? Ecco. Ma sugli SMS non è la soluzione al problema della prostituzione. Però? È solo l'ultima sponda, cioè, che tra l'altro viene usato dal governo svedese. Ma scusami, è una follia. Amico mio, è una follia. È una roba assurda. È come è il 2.0 della multa recapitata a casa. È la gogna. È l'evoluzione. È una gogna pazzesca. È l'evoluzione giusta. È una gogna. Ma come si fa a violare la privacy in questo modo? A distruggere le famiglie, che magari uno va solo a puttane e poi ritorna a casa tranquillamente. Non ho capito, amico mio, però. L'SMS arriva dopo una serie di violazioni. E quali sarebbero? Allora, la prostituzione in Italia non è più come era negli anni 50, quando avevi 8 su 10 esercitavano per professione post-bellica. Lo sappiamo, ne siamo a conoscenza. Sì. Abbiamo 8 su 10 che sono, potrebbero essere mia sorella, tua sorella, mia madre, tua madre. Non ci sono 8 su 10 schiave, non è vero, non è così. Sì, quelle per strada sto dicendo. La gente al giorno d'oggi, se gli chiedete fuori, vi risponde che la via più semplice è il bordello, perché tanto lì vengono tutelate. E a te non piace il bordello? No. Manco il bordello? Perché? Che c'ha il bordello che non va? Perché? Perché è un sistema di legittimazione, non solo di schiavismo, che viene bandito, assolutamente combattuto da ONU, Unione Europea, Carta dei Diritti, eccetera. Ma non è vero, in Germania non è mica contro l'ONU la Germania. Ma noi dobbiamo fare un passo avanti, andiamo indietro. E qual è il passo avanti? Eliminare la prostituzione? Avanti è il modello svedese. Ma lo provano anche studi, che viene eliminata la prostituzione su strada. Ma che eliminata? Punendo il cliente. Io mi appello al buon Parenzo. Ma non c'è mai dubbio, io la sostengo, caro assessore, caro sindaco. Cioè, sono assessore, sono consigliere. Scusa, ma mi pare lei abbia avuto un'idea geniale. Secondo te, chi va a puttane? Come lo consideri tu? Uno sfruttatore del corpo della donna. No, Parenzo lo sappiamo. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione potrebbero essere minorenni. Aspresiano, se tu passi in serata, trovi un sacco di minorenni per strada. E agisca la polizia e cacci i papponi, arresti i papponi, appunto, ma il cliente che c'entra? Il cliente è quello che sfrutta, perché no? Va sanzionata la domanda. Tu sei mai andato a puttane? Assolutamente no, ma zero proprio. Ah, zero proprio. Sono pronto a sottoscriverlo. Ti perdi qualcosa, amico mio. Ti perdi qualcosa. Perde? Una volta nella vita, due volte nella vita. Altri modi non per conosci fare questo mondo, non provalo. Ha bisogno di quella roba lì, evidentemente. Ma preferisco divertirmi, sinceramente, se voglio divertirmi, conquistando una ragazza. Cioè, una ragazza normale, non sicuramente una prostituta. Ma perché? Che c'ha una prostituta? Non è una ragazza normale, non ho capito. Insulti le prostitute. Ma è sfruttata. Tu pensi che mandare un SMS possa in qualche modo far venire il terrore, l'idea dell'SMS, il terrore a chi va a prostitute, giusto? Beh, sì, assolutamente, può essere un deterrente in più. Ma che deterrente? Uno si sposta da comune, si sposta in un altro comune e ha risolto la situazione. Quanti anni hai tu? Ho 26. 26 anni? Beh, mi sembri il prete del prete? Il prete del comune di Spresiano. Mi sembri ma quale prete? Mi sembri un carmelitano. Beh, forse i carmelitani, i preti, i cappuccini sono più avanti di te da questo punto di vista. Dai, su, mai andato a puttane. Vuole mandare gli SMS ai clienti. A 26 anni ti sei visto mai un film porno? Ma assolutamente sì. Cosa sarei un bigotto ipocrita? Sfrutti le pornostar. No, sfrutti il sesso. Pagate, anche lì c'è gente. Anche lì c'è gente che vende il proprio corpo magari per... Parenzo, grazie. Ma scusa, ma non c'è dubbio, ma stai scherzando? Ma è uguale, dai, la stessa cosa. Ma che uguale? Tu vendi il tuo corpo, magari per bisogno. Ma vendi il tuo corpo? Ma certo. Vendi il tuo corpo per bisogno, uguale, la stessa cosa, identica. Eppure guardi film porno. Dunque hai sfruttato anche tu nel tuo piccolo le pornostar che hanno bisogno di soldi e vendono il proprio corpo. Ragazzi, è così, la stessa cosa. Ma non è così. Ah no, non è uguale. Diverso. Non è uguale. Ciao. Ragazzi, comunque è incredibile, eh? C'è gente che arriva non so per quale motivo, per bigottismo, perché ha bisogno di farsi pubblicità, non lo so, perché ha in testa l'idea che la donna viene mortificata e allora bisogna agire su queste pulsioni dell'uomo, su queste perversioni, quelle vanno punite. Vanno sanzionate con la multina, da 150 euro, due multe all'anno, 10 multe all'anno, non si risolve nulla. Si crea invece panico tra le persone. Nessun panico. Viene beccato uno a caso, poveraccio, come quei due giovani di 18 anni, non so di dove, che hanno avuto una multa da 400 euro per aver rimorchiato una nigeriana. Anziché non hanno rimorchiato nessuno, hanno pagato una nigeriana. Ma rimorchiato vuol dire sottende, diciamo, anche un'azione, come dire, adulatoria della persona. È una vergogna questa roba. Hanno qua. Semplicemente pagato e sono stati puniti. È semplicemente una vergogna. Questo qua è arrivato, come avete sentito, a proporre l'SMS alle mogli a casa. Bravo. Dai. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Ti piace il coniglio, Peppe? La zanzara. Parenzo, io sono fiero, orgogliosissimo di avere mio figlio diciottenne che va a puttane. Noi siamo qui a ridere e scherzare, ma ricordiamoci che Parenzo è pisellino sbucciato. Questo non credo. Id, dov'è che dormi esattamente mezzo nudo? Gianmarco Novi, caro Parenzo, candidato Premier 5 Stelle, uno dei sette nani che sfideranno per modo di dire, naturalmente, il signor Di Maio. Cosa dice il signor Novi? Per esempio, che il cocomero fa bene al cuore e al pisello. Sai, no, che è fruttariano, vegano, sì, questo può anche essere. Il cocomero fa bene al cuore e al pisello. Mangiate cocomero, che fa bene al cuore e al pisello. Va bene, perché l'ananas, se lei segue un po' i consigli dei nutrizionisti, serve per chi vuole dimagrire, perché scioglie i grassi. Sì. E l'anguria invece fa bene? L'anguria contiene la citrullina, e la citrullina fa molto bene al cuore ed è anche un ottimo Viagra naturale. L'ananas è un Viagra naturale, la citrullina. Classe dirigente, Ma classe dirigente è un candidato come ce ne sono tanti, dai, per su, carità, classe dirigente, dai. Classe su. Dirigente, io dico solo questo, commento solo così, con due parole, classe dirigente. A un certo punto, durante l'intervista di Piazza Pulita, lo chiamiamo noi, senti. Tu sei vegano per molteplici motivi e ci sta chiamando la zanzara in diretta. Pronto? Secondo te queste primarie sono una farsa, sì o no? Cioè, Di Maio contro persone che non hanno nessuna possibilità, perché non sono una farsa. Una roba incredibile, gli incroci dappertutto, sta zanzara da fermare. Io direi un tipo da zanzara, andiamo un tipo da zanzara, dai. Vai con la sigla. Tipi da zanzara. Io ti dico una cosa, innanzitutto vatti a fare un esame del sangue, perché ormai sei color giallo epatite e sei una roba imbarazzante da vederti. Uno, due, veramente ormai sei un genio. Ma io guarda che però vorrei vedere le emissioni, sei la brutta coppia di Costanzo e ti vesti anche peggio di Costanzo. Ma dove cazzo le trovi quelle giacche? Sei imbarazzante, sei. Guarda che Cairo sarebbe veramente da processare per crimini di guerra. Mettere adesso io capisco che il buon gusto non sia di casa. Televisione. Dai, ma dove cazzo le trovi quelle giacche? Ma neanche i migranti che arrivano qua col barcone gli mettono su quei vestiti, stanno freddo perché hanno vergogna pure a me. No, voglio dire, questa è una persona sconcertante, è una persona, è una persona anche disturbata, perché uno, diciamolo chiaramente, uno che chiama una radio è un disturbato. C'è uno che in particolare in questo programma, uno che accende la gente, normalmente non ascolta la radio. Questo qui chiama per insultare, è un povero disturbato. Fabrizio da Milano è stato quello che ha coniato una straordinaria espressione di una persona che conosce. Sottello, dai, ascoltami, scusami Giuseppe, se ti intendo, ma si può mettere in televisione Telese, veramente imbarazzante, là, Hitler uscito dal McDonald's. Parenzo che ormai è, sembra la bambina di The Ring in televisione, e quell'altro con la barbetta, lo scemo là interista che faceva la trasmissione con lui. La batte, ma dai, sì, la ma minchia, Cairo lo reputava una gran... A parte che non ci ha venduto Belotti, lo odio, però lo reputava una gran persona. Ma può mettere tre persone come peggio della banda della Miami? Come si fa a mettere tre rottami del genere in televisione? Com'è la storia di Telese e Hitler? Hitler è uscito dal McDonald's, è uguale. Guarda che ti informo che Hitler è uscito dal McDonald's, che è una definizione anche geniale per quello, conduce tutte le mattine su questa emittente che tu stai infestando con la tua voce. Che queste, la trasmissione del mattino è una roba straordinaria. Quindi, chiamalo domani mattina. Chiama Telese se hai coraggio domani mattina. Coglioni, ma come si fa a sentire quella dopo di voi? Ma veramente. Ma devi far due pere per ascoltarla, ma dai, ma ciao, bravo, Fabrizio, ciao. Vatti a fare gli esami, c'ha l'epatite. A chi da, io? No, mica a te, ma se ti voglio là, il color c'ha l'epatite. Ma tu vatti a fare gli esami del sangue, sei già l'epatito. Ma io sai che quando sono state in pista tre settimane e mi sono spaccato tutti i giorni, non ero ridotto con la faccia che c'è te con quelle occhiaie. Ma io sai perché ho questa faccia qua? Con i soldi io che hai, vatti a fare una lampada. Ho questa faccia qua perché io sbianco a sentire le parole dei ragazzi. Tu ci fai sbiancare a noi, ci fai cadere i coglioni in televisione. Ciao. Allora, io ho croce celtiche, ho il fascio, ho tutte le scritte di Mussolini, ma non è quella. A parte che voglio dire all'idiota che non è che ho la mia faccia tatuata, io sono tatuato in faccia, ho la croce in faccia, le lacrime, non ma è che per c'ho forza, la mia magari faccia migliori. Ma magari migliori. Che qua comando io con la croce. E se hanno qualche problema fuori dai coglioni a casa mia. Comunque, voglio dire una cosa, Giuseppe. Nel 2017 dove siamo, parlare ancora di fascismo, solo l'idiota che c'è a fianco. Io sono fiero delle mie origini e sono sempre fascista dentro, ma ormai parlare nel 2018 di fascismo e comunismo, solo i deficienti come lui e Fiano lo possono pensare, perché ormai che cazzo parla qua di fascismo e comunismo? Fermolo. Qua stiamo arrivando alla deriva. Fermo, ciao Fiano. Tipi da Zanzara. Allora ragazzi, andiamo in provincia di Vicenza da Francesco. Vai Francesco, vai. Buonasera a tutti. Calma, vai. Luciani, sei il numero uno. Sì, ma ti voglio ascoltare. Scusa Francesco, però abbi pazienza, puoi dire quello che ti pare, però ti devo ascoltare. Se tu mi parli da una caverna, il telefono non si sente, eccetera, partiamo male. Vai Francesco, dimmi. Ok, d'accordo. Dai. Dunque, volevo riallacciarmi al fatto di cosa. Aspetta, non che sento. Dai Francesco, su, dai, forza. Di Rosa ieri ha avuto un grande senso della civiltà fascista. Civiltà che, scusa? Civiltà. Parenzo, ma che c'entra? La devi finire di fare il buonismo. Ma che c'entra il fascismo con Rosa? Più. Che c'entra il fascismo con Rosa, scusa? L'educazione civica ce l'hanno insegnata i nostri nonni. Ma che c'entrano i nonni col fascismo, scusa, spiegami. Io ritengo che lei necessiti di cure importanti, eh? Sì, ma anche tu, sì. Perché mi sa che è una vena cure, di dolce ancora da tirare cure importanti lei riceve, riceve già un diciamo il Servizio Sanitario Nazionale già l'aiuta, la segue oppure no, per capire? Guarda, sono già in cura per gli affari miei, non ti preoccupare, ecco. di questo. Benissimo. Beh, questo scusa Francesco, la cura che proporrei è il soggetto che dice il mattarello. Sai che cos'è il mattarello? Sì, il mattarello, che c'è? Mattarello per chi vorresti, scusami? Il mattarello lo vorrei per tutti quei maleducati che non si adeguano alle leggi italiane, chi fa il furbo, e poi anche per quelli che lì difendono, tipo Parenzo, il mattarello, che ha un'aurea d'accordo. un po' finocchiona, grazie, sai come si dice dalle mie parti, come si dice, sentiamo anche questo, dolce, Te ha fatto passare mila vena de dolce. Te fasso passare. Scusami, ma tu vorresti usare il manganello o il mattarello, che dir si voglia, nei confronti, per esempio, dei migranti, caro Francesco dalla provincia di Vicenza? Beh, voglio dire, non è che vorrei. A un certo punto ci costringono, perché insomma, ci noi costringono. Siamo qua, ho capito. A fare cosa ci costringono? Ci costringono a prendere misure, no? Misure, anche sì, verbali, anche che verbali, non, sì, non siamo più abituati a non prendere. Non siamo più abituati a prendere, dirti, certo. È chiaro, perché ragionamenti lucidi, mi pare, anche intensi. Bene, vai avanti pure. Prego, sì, vai avanti. Ormai ne abbiamo le scatole piene. Parenzo, dove cazzo, sì, vivi? Non c'è dubbio. Sull'albero delle banane. Ne abbiamo ma non ti rendi piene, conto ormai. La ormai vita ne reale abbiamo, poi ne abbiamo chi? Io quelli che dicono ormai ne abbiamo. Ne ha? Sì, parli ne di sé. Siamo in disturbato. Tanti, siamo in tanti. Ma siete chi? Anzi, è un cretino da solo in macchina che ascolta questo programma straordinario e telefona. È da solo, è un cretino. Parli per sé. Non abbiamo. No, abbiamo, siamo ormai siamo in tanti, chi non hai capito, è da solo, lei le l'hanno ormai abbandonata tutti, perché lei è pazzo, disturbato, sì, no, sì, è chiaro, ma è ovvio, ci fanno che diventare pazzi, ci fanno, no, diventare pazzi, ci fanno, e chi? Tu la devi finire di, cioè, difendere questa gentaglia. Senta, che faccia viene qua così, solo mi per dia prendere, mi dia letta, tenga le mani sul volante, vada piano, non beva, arrivi a casa, si chiude in casa, guardi, non riesca più, mi dia letta. Faccio un lavoro che non posso, sì, bere nemmeno una goccia d'alcol. Guardi un po'. Ma il camionista lavoro, per caso? Bravissimo, vedi che Cruciani ha il cervello aperto, non come il tuo. Devo dire la verità, in questo caso non ci voleva, no, moltissimo. Geniale, io ho il sospetto, però, che tutti, sì, i camionisti, sì, siano fascisti. Alcuni si incazzano, mi scrivono, no, dicono: guarda, io non siamo tutti così. No, certo, tutt'altro, eccetera. La minoranza, la maggioranza silenziosa non è che chiama, cioè la maggioranza silenziosa dei camionisti, ovviamente. Lo sai che questo Mein Kampf che mi ha regalato il signor Targetti, originale, ma avrà un valore di qualche migliaio di euro? Non lo so, ma è veramente bello, lo sai. È veramente bello questo Mein Kampf, non si capisce, sì, una mazza. Storico, sicuramente. C'è una foto del signor Hitler giovane, una foto che è impressionante, una foto del signor Hitler giovane, questo qua, nel Mein Kampf originale degli anni 30 che mi hanno regalato. L'imbianchino mancato. Fiano, vienimi a prendere, faremo manifestazioni eclatanti quando la legge sarà approvata, caro Fiano. Io lo sai che non ti disprezzo assolutamente, anzi, penso che sei un grande combattente, vai lì a dire le tue, a dire la tua, eccetera, ma penso che stai sbagliando profondamente e hai risvegliato nei confronti di molte persone le peggiori bestialità, no, questo no, è il punto, no, come no, assolutamente. Tu puoi assolutamente il tuo Mein Kampf a casa tua. Fermo senza lì rompere le balle in Fermo televisione lì. Antonio, provincia di Napoli, vai Antonio, vai. Carissimo, buonasera, come dimmi, stai? Dimmi Antonio. Bene, vai. A riguardo di Napoli, San Gennaro, io vorrei dire così, sì, si nomi merda. Io? Sì. Beh, pazienza. Oh. Non mi sembra una cosa così bizzarra. Sono un uomo di merda. Perché sarei un uomo di merda? Perché piglio per il culo il tuo santo? Per quale motivo? Ma oltre il santo, noi napoletani, il nostro modo di vivere. Ma io non piglio assolutamente per il culo il modo di vivere dei napoletani, ti sbagli, assolutamente. No. Metto in evidenza quello che è evidente. Metto in evidenza. Sono un assiduo ascoltatore della tua trasmissione, a più riprese tu. Non mi sembra sempre che ti fai molti problemi a continuare ad ascoltare questa trasmissione, anche se la accusi di essere una trasmissione contro i napoletani. Noi mettiamo in evidenza ogni tanto dei fatti di cronaca che vengono, chissà perché, soprattutto da Napoli. Alcuni, non altri, ovviamente non tutti, soprattutto alcuni fatti di cronaca. Dimmi. Niente, basta, si nome è merda. Si nome da telefonata. E qual è l'augurio? Mi auguro, sì, che tua figlia si possa innamorare di un napoletano. Ma ne sarei contento, non me ne fregherebbe assolutamente nulla. Ma che c'entra? Non è una questione né etnica né razziale né una questione di napoletano. Non hai capito chiaramente un cazzo di quello che ho detto. Ma non va bene lo stesso. Non hai capito una classica mazza. Ma non credo. Ciao Antonio, ciao. Sì, ciao. Venerdì crucia fino alla notte, non mi rompete i coglioni. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone. Che è venerdì, stronzone. La Zanzara. Ragazzi, ma voi lo capite il carmine detto karma per la mia zanzara, che la seconda cosa in assoluto nel mio modo di vivere a zanzara, qua al primo posto ovviamente c'è lo sticchio, perché davanti lo sticchio si fermano tutte cose. Ah, davanti lo sticchio, Giuseppe, per me lo sticchio è sacro, Giuseppe. Io quando vedo una bella patata nuova, per me è come dire una preghiera. Diamo a vedere l'occhio che me ne escono di fuori. Ma tu a vedere quando io vado al bordello, quando vedo qualche sticchiuna nuova, a vedere come mi diventano l'occhio che me ne escono di fuori. Minchia, divento che me ne esce la lingua di fuori, divento tutto... Minchia, chissà che nuova, com'è tutto... Minchia, mi viene subito voglia di provarla, di montarla subito. Per primo, usticchio, in assoluto. Come seconda cosa, zanzara. Io senza zanzara non ce la farei. Non ce la farei a stare, ragazzi. Né senza sticchio, né senza zanzara. Viva la zanzara! Viva lo sticchio! Viva lo sticchio! Là ci vuole la nerchia. Questo professore, caro Davide, questo professore è il karma. È un evidente problema di valori. Questa è la questione che io vorrei porre proprio. C'è proprio un problema di valori. Cioè, se uno arriva a chiamare dicendo appunto sticchio, l'ordine delle sue priorità, diciamo, sono il famoso sticchio e la zanzara, ragazzi, il paese. Il paese va male, amico mio, e tu purtroppo stai contribuendo alla distruzione sistematica di questo paese, anche grazie a questa gente qui. Allora, espone il calendario del Duce, Lampi contro il supermarket. Oh, pensate, in un supermarket in provincia di Imperia appare un calendario di Mussolini. Lampi insorge, ottimo, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, certo, insorge. I comunisti vivono di questo, dice il titolare. Ma quale comunista? Il calendario di Mussolini, souvenir di Predappio appeso alla cassa del supermercato. Guarda le foto. Se lo tenga a casa sua. Ha scatenato una bufera a Valle Crosia, piccolo centro balneare della provincia di Imperia, dove Lampi ne ha chiesto l'immediata rimozione. Ma ragazzi, certo. Ma occupatevi di altre cose. No, di cosa devono occuparsi? Di questo, della memoria dell'antifascismo devono occuparsi, di quello devono occuparsi, eh? Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta La Zanzara. Locastro? Sì? Sì, buonasera, qui Cruciani, Radio 24. Mi dica. Sì, buonasera, ma che è successo con questo calendario? È quello che mi domando anch'io. Ma che li hanno, gliel'hanno tolto? No, ma io non lo tolgo neanche. Bravo, bravo, bravo, hai il mio applauso, ti voglio abbracciare, fermola, ti voglio abbracciare fortissimo, ti voglio abbracciare. No, io non è che lo tolgo per partito preso, lo tolgo perché non è un reato, a me me l'hanno regalato. E tu perché l'hai esposto là? Perché mi serve un calendario, questo mi ha portato da Predappio, gli ho detto vabbè, mettiamoli. Bravo, ma giusto, ma suona. Scusi, aspetta, buonasera. Qual è il problema? Scusa, secondo te qual è il problema? Chi è che ti ha rotto i coglioni? Lampi? Chi è che ti ha rotto le balle? Lampi, sono venuti in 9 mesi 2 persone, un uomo e una donna. Sì. E tutti e due si sono spacciati, perché io sappia, per presidenti, perché Lampi probabilmente ha 2 presidenti. Vabbè, quello che è. Ma insomma, sono venuti là perché hanno visto questo faccione di Mussolini, questo calendario. Che c'è in questo calendario esattamente? È un calendario normalissimo, raffigurante delle fotografie a mese per mese di Mussolini. Sì. E sotto c'è settembre, c'è scritto Mussolini, le pensioni. Sì. Mussolini cosa ha fatto? Sì. Mussolini che cagate ha fatto? Mussolini cosa non ha fatto? È normale, non è pubblicità. La risera di San Sabba, Mussolini, l'omicidio Matteotti, Mussolini, fermo, la marcia su Roma, Mussolini, il Minkul Pop, cioè il Ministero della Cultura Popolare. Tu sei un po' fascista? No, ma non parla di quelle cose, parla di altre cose. Ma tu sei un po' fascista o no? No, assolutamente. Sei un po' ammiratore però del Duce o no? No, ho letto la storia del Duce, come ho letto quella di Stalin e di Lenin. Ha fatto cose buone il signor Mussolini? Ma secondo me è qualcosa di utile. Se qualcuno c'ha la pensione in Italia per adesso, ce l'ha, compresi i parlamentari italiani, forse grazie a lui. È quello che non avremo noi, che non è grazie a questi che ci governano. E i comunisti, dovrebbe, cioè, ti piacerebbe tornare con un, all'epoca del Duce, no? Ti dici, no, assolutamente, sono un antifascista. Scusami un attimo, ma i comunisti come li giudichi invece? Signori comuni, il comunismo. Ma non c'è il comunismo. Come? In Italia patetici. Patetici. Ma qual è il comunismo? Cosa vuol dire? Qual è il comunismo? L'ampio, questi catto comunisti che sono veramente loro forse i fascisti, perché sono antidemocratici comportandosi così. Assolutamente, sono d'accordo con te. Cosa vuol dire? È un calendario che non fa male a nessuno. Questo qua è un calendario che non fa male a nessuno. Un signore gliel'ha regalato a questo gestore di un supermarket che espone una roba. Sono Parenzo, caro. Buonasera. Sono Parenzo, buonasera. Io non entrerei mai, non metterei piedi in un posto che espone un calendario simile, quindi si fa un danno economico da solo. Scusi, se uno vuole venire entra, se c'è una vuole entrare in un supermercato. Io non entra. Metterei piede. Questo ha le palle, questo signore ha le palle, ha le io palle. Metto quello che voglio a casa mi dice mia, esattamente dove mia. Si trova questo supermarket che vediamo perché un vuoi attimo. Denunciarlo? No, vuoi denunciare? Ditemi dov'è esattamente questo supermarket? Trovi, provincia di Imperia. Gli dia anche l'indirizzo, provincia così vuole fare una denuncia, signore. Imperia, sì. Via Colonnello Aprosio 116. Via Colonnello, scusi? Via Colonnello Aprosio 116. Ma chi vuole che gliene frega a lui 116. Se lo vuoi denunciare? Benissimo, lo vuoi denunciare perché cosa? Benissimo. Per apologia di fascismo? Io non denuncio nessuno, segnalo. Non ho capito con chi parlo, però scusate. Sono Parenzo, caro, buonasera. Ma Parenzo buonasera. Chi è Parenzo? Sono Roberto. Non c'è Parenzo. Bisogno, non cosa c'è bisogno. Lei? Io rappresento tutto. Rappresento tutto, cosa, tutto ciò che non è lei. Io ho rappresento tutto ma quello che non conosce, è lei. Perché non sa cosa sono io. Ma è un antifascista, espone, ha detto che è un antifascista lei pure. Espone e rivendica di esporre un io non sono fascista. No, antifascista. Lei non sapere cos'è lei fascismo. È semplicemente un signore che espone un calendario di Mussolini nel suo esercizio pubblico. E allora qual è il problema? Se lo esponga a casa sua. Ma perché non è un esercizio pubblico? Ma il negozio è suo. Scusami, ma è un esercizio pubblico. Allora, scusi, il signor Parenzo mi ha detto? Parenzo, sì, Parenzo. È così. Attacco, è così. Non è così acculturato, probabilmente molto più intelligente di me. Non lo so, mi interessa niente, non è questo il problema. Lei è pratica dell'Italia, la conosce l'Italia o no? Sono italiano, sì, da generazione. Cosa fanno a Predappio? A Predappio c'è la tomba dei Mussolini e ogni anno quando c'è l'anniversario del Duce c'è una vergognosa messa in scena che andrebbe proibita. No, ci sono i negozi. A me non interessa delle ci sono dei negozi che vanno chiusi. Come vivono i negozi? Ci sono dei negozi che vanno chiusi. Secondo lui vanno chiusi. Lei è un catto comunista. Bravo. Né bravo. Catto né comunista. No, lei è catto comunista. Né catto, è fascista, sicuro. Perché lei vieta di esporre, di parlare o di fare in un paese libero, si intende. Bravo, bravo, amico mio, bravo, bravo. Vai all'attacco così. Voglio solo ricordare che la Costituzione italiana è nata proprio sulle ceneri. Del fascismo. Ma cosa c'entra? Grazie ai comunisti. Grazie ai comunisti, peraltro, che scusi, l'hanno anche firmata. Signor Locastro, comunque, Locastro, cioè, caro Locastro. Dei comunisti e dei fascisti, dico solo una cosa: caro se Locastro. Dopo 70 anni, sì. Se i Lampi o i comunisti attuali non ci fosse stato fascismo, cosa farebbero nella vita? Nulla. Io non so se Locastro, non lo so se Locastro, questo Castro, non so se io Locastro, io non Locastro delle sue idee, non Locastro per nulla. Dico che quel calendario è così spiritoso. Io abito, dico che dove abito, perché non mi viene a trovare? Quel fottuto calendario perché è un regalo che gli hanno lo fatto. Lo può tranquillamente mi hanno regalato il Mein Kampf oggi. Sua, mi hanno regalato il Mein Kampf sua, oggi. Mi hanno regalato a il Mein Kampf sua. Ascolti, a casa sua lo può esporre. Prima, per favore. Ecco, sono io, eccomi qua, sono Cruciani. Questione di prima. Cruciani, l'amico. Cosa mi rappresenta lei, scusi? No, scusi, che c'entro io? Anche per te, ma io sono la parte sua, scusi. No, no, ma mi rappresento un qualcosa? Io qui è Radio 24, la Zanzara. Ah, buonasera. Radio 24? Sì, buonasera, sono Cruciani. Ma guarda che oggi mi avete chiamato Riviera 24, Lanza di Milano, Lanza di Genova. Però io voglio capire, Lampi, mi chiamate la signora dell'Ampi, una cosa? Le piacerebbe parlare con una signora dell'Ampi, quella che le ha rotto le scatole, così gliene dice due? In faccia. Cosa devo dire? Aspetta, ci parlo io prima, aspetta. È una patetica, mi dispiace perché intanto deve dire grazie. La cosa farebbe nella vita? Aspetti, che glielo dico io. Glielo dico io un attimo. Resti lì un secondo. Ci parlo io. Me la cucino io. Me la cucino io. Aspetti un attimo. La memoria della resistenza. Me la cucino io. Smettetela questa memoria. Pensate agli italiani che stanno morendo di fame. Pensate agli italiani. Che argomento. Bravo, bravo. Che argomento. Mia madre prende 420 euro di pensione. Cosa c'entra questo col fascismo? Ma cosa c'entra questo col fascismo? Bravo, fai cosa bene a ricordare queste cose. Siete voi i veri fascisti, siete antidemocratici a 70 anni dalla fine di una dittatura. Siete voi i veri fascisti. Sì, sì. Ma lo Castro, io dove è uscito fuori? Perché lei non fa politica, non ecco, fa comizi? Da dove è uscito? Non fa... piace fare politica. Ma perché lei è perfetto, è un perfetto liberale, un perfetto democratico. È un democratico vero. Io ho fatto politica. Lei ho dato le dimissioni come assessore alla viabilità qua. Lei è un democratico vero, le posso dire che è un democratico? Io sono un anticompromesso come fanno quelli dell'Ampi, che prendono le sovvenzioni e poi aprono le associazioni in Italia. Bravo, bravo, dice tutto quello che bisogna dire, perfetto. Non c'è. Alle 6:30 del mattino vado, sono ancora qui in negozio che lavoro, veda un po' lei. Invece il signor Parenzo, fenomeno. Parenzo qua, sì. Parenzo, sì, signor Parenzo, sì, fenomeno, sì, giusto, bravo. Fenomeno, sì, sì, fenomeno assoluto. Perché pensa giorni, che quel innocente calendario che ha lei, frutto di un regalo che lei appende dove vuole, accanto alla cassa, accanto al suo ufficio, eccetera, eccetera, non dà fastidio a nessuno se non a quattro poveracci. Guardi, che non è... io ho 58 anni. Sì, sì. Ho fatto 8 anni di militare, poi ho dovuto smettere per motivi di salute di mio padre. Sì, sì. E mi alzo dalle 7, sono laureato in economia e commercio, però mi alzo la mattina alle 6 e carico camallo cartoni per mettermi a posto al negozio. Certo. Dovevo mangiare a 4 persone, e questo cosa c'entra? Dipendenti. Sì. E questo cioè, fa il suo dovere, questo cosa le dà il diritto di esporre il calendario del duce? Se paga le tasse. Ma se pago tutte le tasse, le pago. Un attimo solo, un attimo. Pronto? Signora? Sì, prima è caduta la linea e poi mi hanno subito chiamato. Signora Amelia? Sì. Sì, sì, è signora Amelia Narciso, giusto? Sì, la richiamo io dopo 2 minuti che voglio parlare di quella cosa incredibile del calendario di Mussolini, no? Si ricorda? Va bene, 2 minuti la richiamo, 2 minuti la richiamo. Sì, due minuti, così parliamo, parliamo in maniera forte, decisa di questa roba qui. Un attimo solo. Facciamo un delirio! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Si sciolto, si sciolto sangue San Gennaro, tutti dietro, si sciolto, ma no, la vista Maria si è sciolto, ma porca puttana, ma ragazzi, ma ancora, ma nel 2017 siete ancora lì che credete al sangue di San Gennaro, figo, quanto cazzo di sangue c'ha sto San Gennaro, quanto cazzo deve averne ancora perché finisca questa puttanata del sangue di San Gennaro che si sciolto, e la chiesa che si presta a queste stronzate, cioè sentir parlare un napoletano e sentir parlare un azteco di 2000 anni fa non cambia un cazzo, non cambia niente, è la stessa identica, i riti magici in chiesa. Figa, ma non è normale. Ma poi ne parlano i telegiornali, Cesare Buonamici al telegiornale. Oggi si è sciolto il sangue di San Gennaro a Napoli. Ma figa, ma vi rendete conto che figura di merda facciamo col mondo? Cioè, il mondo pensa che noi italiani siamo come cazzo le tribù dell'Amazzonia, figa, dei rincoglioniti che credono ancora a ste stronzate. Dai, vi prego, togliete sta roba del sangue di San Gennaro che facciamo tutti una figura di merda micidiale. Dai, toglietela, vi prego, toglietela. Dai, via, via San Gennaro, dai, ciao, dai, via. Toglietela. No, mi sono innamorato di questo tizio qua, mi sono innamorato. E la voce che sì, anche è stupenda, particolare, è meravigliosa. Il contenuto assolutamente non condivisibile. Credo sia lo stesso del messaggio a Barisoni, lo sai? Il messaggio a Barisoni, quello sui 2 minuti di ritardo. Beh, sì, ma si capisce che è una persona. È un genio, è semplicemente un genio. Vergognosa. Attacca le istituzioni. Allora, cioè, ragazzi, Barisoni è un'istituzione. I vostri amici dell'Islam, gli amici probabilmente anche tuoi, sentiamo, caro Davide, lo sceicco saudita. il presidente del consiglio della fatwa della minchia della provincia di Asir. Sì, uno che il presidente del consiglio della esiste un consiglio della fatwa, io aggiungo della minchia, nella provincia di Asir, nel sud del paese. Si può dire della minchia in questo caso? Ma sì, facciamoci il consiglio della anche fatwa, i sauditi, ragazzi, giusto? Sì. È insopportabile questa cosa. Un posto nel sud del paese, nel sud dell'Arabia Saudita, già il nord è quello che è, figuriamoci il sud dell'Arabia Saudita. Ah, tu dici perché il sud, ah, ho così, capito, la metafora del sud. Ah, tu dici che il sud lo, in generale lo sceicco saudita, le donne non possono guidare perché hanno un quarto di cervello. Lo sceicco saudita. Esatto, sì. Ragazzi, le donne non possono guidare perché hanno un quarto di cervello. Devo dire che anche il professor Lemme, esatto, pur non essendo sceicco saudita, più o meno dice la stessa cosa. No, togli il solo più, che il professor Lemme non conta un cazzo. Questi qua comunque gestiscono persone o influiscono sul destino delle persone. Petrolio più che altro. E io anche petrolio, naturalmente. In Arabia Saudita, fra poco meno di un mese, in mezzo a quel mondo di canaglie che è l'Arabia Saudita, si discuterà la proposta di concedere la patente alle donne, però sopra i 40 anni. Ah, pensa, cioè, uno e lo accoglie anche come un auspicio, come una cosa bella, però uno dice sopra i 40 anni, ma andate a fare in culo, va, voi all'Arabia Saudita, dai, bisognerebbe rompere, io lo sostengo da tempo, l'Arabia Saudita vanno rotte le relazioni diplomatiche subito, anche d'accordo subito con tutti, con cosa con ti scaldi, tutti. Non mi interessa con cosa ti lavi, ci sono tanti altri, per te non ce esiste, ne sono infatti. Tanti altri, ce ne sono, a me non importa, perché ecco, appunto, figurati. Allora, ripeto, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, nella persona della signora Amelia Narciso, vuole far togliere un piccolo caso, però emblematico della follia. Avete sentito prima l'ottimo Locastro, che è il titolare di un supermercato in un posto che si chiama Valle Crosia, il quale subisce la visita di alcuni membri dell'Associazione Nazionale Partigiani che vorrebbero far togliere il calendario del Duce che gli hanno regalato dal suo supermercato. Meritorio. Allora, io questa signora la vorrei chiamare, signora Amelia Narciso, si chiama Amelia Narciso, mi meritorio. Sembra anche un po' vecchia la signora, per carità, anziana, non è un crimine, se mai, assolutamente, diciamo, una signora anziana, meritorio il lavoro che sentiamo, fa la signora, ma chiamiamola. Amelia? Sì. Eccomi qui, sono Cruciani. Senti, io volevo capire, signora Amelia, quanti anni hai tu, scusami Amelia? Sono del 48. Vabbè, non sei poi così anziana. Sono nata insieme alla Costituzione, mettiamola così. Sei entrata in quel supermercato? Io non ci sono mai entrata. E chi c'è entrato allora? Non hai visto allora, nulla? Allora, un signore, un turista, turista torinese, questo in agosto, e quando ha visto quel calendario dietro le spalle, proprio lì alla cassa, è rimasto evidentemente colpito, infastidito, certo. Mi ha mandato all'Ampi di Imperia una lettera e voi che avete in cui fatto? Comunicava questo fatto. E voi che avete fatto? Allora, io ho ricevuto, io sono la segretaria del comitato provinciale. Sì, va bene, ho capito, sì. Grazie e allora tanto. Ho ricevuto questa lettera e ho cominciato a tanto comunicare a quelli di Ventimiglia e di Valle Crosia. Ma scusi, qual è il problema? Scusi un attimo, grazie, qual è il problema? Il fa, mi scusi, signora Amelia, qual è il problema di avere un calendario di Mussolini in un supermercato? Beh, scusi, me lo può spiegare? Non è un problema. E allora perché vuole farlo togliere? Una, se io lo voglio tenere, o dunque, gli edicolanti lo vendono. Beh. E quindi anche se la cosa è personalmente a me non piace, però. Ma perché quello là perché quello se lo dovrebbe portare a casa il calendario? No, se no, quello è giusto che se lo tenga nel privato. E perché? Ma se lo vuole, ma se lo vuole mettere nel suo, nel suo negozio, che male fa? Certamente, lui volendo può permettersi di fare quello, anche se è un'apologia di una fase di un ma quale apologia? L'apologia che cos'è? Ma quale apologia? Se io metto un manifesto, scusa, ma dai, ma non ci avete niente, ma non ci avete niente, non ho voluto, il discorso è se quello ostenta il suo essere un cultore delle, ma non faccia adesso la allora io personalmente posso anche bravissima. Dire Io ostento il mio non essere. Sì, ma scusi, persona. signora, scusate. Ma brava, grazie per quello che fa, signora. Grazie. Ma intanto. Che grazie, ma quando mai? Grazie. Non ci avete niente da fare che occuparvi di un calendario in un supermercato. Tenere viva la memoria storica. Ma non avete niente da fare, questa è la realtà. La prima cosa che abbiamo da fare è mandare a fare in culo i fascisti. Signora, scusi se intervengo in modo un po' tranchant, però io ho un antifascismo un po' più militante del suo piemontese. Quindi adoro il lavoro che fa, però ogni tanto bisogna alzare proprio la testa, e dire che il primo lavoro da fare è mandare a fare in culo i fascisti. Ma che c'entra questo? È la prima cosa proprio basica, signora. ABC. Scusi, le voi non avete, la realtà è che voi esistete solo perché solo per queste cose qua, perché altrimenti non, la vostra esistenza non sarebbe giustificata. Cioè, lei perché deve andare a perdere tempo per un calendario dentro un supermercato? Mi spiega perché? È per una questione di rispetto nei confronti della resistenza e dell'Italia, sì. Locastro, lei è quello, aspetti, le presento Narciso, signora Amelia, le presento, sì, il proprietario del supermercato. Locastro, dica qualcosa alla signora così ma la chiudiamo. Ma a me non interessa il proprietario del supermercato. No, ci parli, non faccia la fascista, ci parli. Ha fatto la sua bella uscita. Ci parli, ma orgoglioso del suo calendario, è giusto. Ci parli un attimo, ci parli un attimo. Io non ho voglia di discutere con questa persona. Ci parli. Perché? Perché non ci vuole parlare? Che è antidemocratica. È già finita. Ci parli. Ma non ho, cioè, lei è antidemocratica, voglio... ci parli. Aspetta. Io non ho voglia e non ho nessuna intenzione di convincere questo signore. Ci parli, senta, Locastro, parli con la signora. Il calendario di Mussolini è una gran cavolata. Parli con la signora, Locastro. Mi sente? Sì, la sente. Ma voglio solo puntualizzare una cosa. La signora è del 48, mia madre è del 27, mio nonno è dal 1872 ed è stato fucilato dai nazisti ad Alessandria. Sì, bravo. Secondo lei io sono un fascista? Amelia, no. Mi risponda. Oh, signora! Ma sta parlando con me, sta dicendo questo? Sì, sta dicendo io lei. Non ho capito una mazza. Infatti lavora per l'Ampi. Le ripeto, lei è del 48, mia madre è del 27, mio nonno è del 1872 ed è stato fucilato nel 43 dai nazifascisti. Secondo lei io sono un fascista? Ma lei può essere quello che vuole, ci sono attenzioni. Lei è un'antidemocratica. Siete degli antidemocratici. Ma guardi che io non le sto imponendo. Lei è venuta a verificare cosa c'è nel mio negozio? Signora, guardi, se lei è educata mi fa finire di parlare. È venuta a verificare cosa c'è in negozio. Ma sa che cosa faccio adesso? Cosa fa? Mi dedicherò a qualche cosa di il più importante, che chiacchierare con lei, perché tanto io non ho bisogno di garantire della sua democraticità o meno. Scusi, ma è lei che ha fatto detto che quello che c'è in negozio non l'ha visto. A me mi stanno dando del fascista. Mi state dando del fascista. Io non ho detto che lei è fascista. Io sono ma l'avete sollevato voi il caso? Basta con questa storia. Avete sollevato voi il caso? Certo, rischia una denuncia anche. Voi come associazione rischiate una denuncia da parte mia. Dai, denunciateci, non abbiamo nessun timore. State ma sa per cosa, signora? Non per il fascismo. Tranquilli, non abbiamo nessun problema. Signora, ma grazie. Non per il fascismo, per quello che avete scritto nella lettera che avete mandato in prefettura. Arrivederci a tutti, ciao Locastro. Ciao signora, arrivederci. Guardi, torni a occuparsi delle cose a casa. Usare la lingua italiana in maniera corretta. Arrivederci, via. Florenzo o Forlenzo, provincia di Latina, vai. Sì, allora io volevo dire una cosa. Intanto volevo dire che sono pro alla prostituzione reputo degli ignoranti tutte quelle persone che pensano che la prostituzione sia una cosa sbagliata. Mi incazzo da morire quando sento che bisognano fare multe, mandare messaggi a casa. Questa cosa non va bene. E vi voglio raccontare giusto due secondi la mia esperienza. Sì, veloce però, amico mio. Vai. Velocissimo. Io ho un amico che è diversamente abile. Sì. Questo amico lo porto sempre con me sia a lavorare, a fare tantissime cose. E per renderlo una persona come tutti quanti le altre, io lo porto anche a prostitute. Bene. Però quando vado ho paura la sera che mi beccano, oppure che mi fanno una multa, oppure che questi qui mi possano rompere le scatole, quando secondo me queste ragazze che voi volgarmente chiamate puttane, no, potrebbero essere chiamate, vabbè, secondo me è un po' volgare, potrebbero essere chiamate delle operatrici sessuali, vabbè, perché ci sono persone ed una parte della società che non si può permettere di avere belle figlie. Sono d'accordo con te, Forlenzo, sono quindi d'accordo, voglio sapere Parenzo cosa risponde. Ma questo a questa tuo cosa. Amico, tu questo tuo amico ce lo sì. puoi passare al telefono qualche volta o no? Allora, purtroppo non è qui con me, però non ti prometto c'è. Che richiamo quando ci sarà anche lui. Gianni da Roma. Gianni da Roma, vai, Gianni. Gianni? Gianni? Dai. Dai, Gianni, su, forza. Coraggio, dai, scusa. Coraggio. Dimmi. Guarda, Cruciani, basta che non mi fai sentire quella pippa, dai, però Gianni parla bene qualcuna. Perché non ti senti, sento poco, parlami bene. Ce l'ha dai. Con me questo signore? Sì, sì. Ma sì. Va, cammina, non ti voglio sentire. No. Lei forse evoca il mio nome, mi pare. Dai, Gianni, mi fai, se mi fai, mi dici quello che mi devi dire, per favore, dai, allora, su. Allora, sì, basta di stare zitto quello. Ma non deve stare allora, zitto, può parlare, può dire quello che vuole, buonasera, vai. Benvenuto. Vabbè, ascolta. Allora, oggi mi è accaduta una cosa che riguarda le prostitute. Che ti è io accaduto? Parlavo con una prostituta, sì. l'ho messa dentro la macchina, sono arrivati i vigili, sì. mi hanno fatto una contravvenzione di 300 euro. Ma dove questo? Dove? A Pomezia. Che c'è anche là l'ordinanza contro la prostituzione a Pomezia? Penso di sì, per avermi fatto questa contravvenzione, però la cosa strana. Ma tu non ho capito, hai imbarcato una puttana per andarci oppure così per sfizio? Non credo, no? Cioè, io per andarci. Per certo, andarci. Ti hanno fatto una multa, ti hanno fatto una multa. Sì, allora sì, che vuoi dire? Che vuoi dire? Voglio dire che i veri papponi sì. sono i comuni che per fare cassa fanno questo tipo di contravvenzioni. Guarda, senta, amico, scusa, saluti scusami. E baci, paga la multa scusa, e taci, scusami, anziché pagata, andare a fare lo sporcaccione con la ragazza sfruttata, paghi la multina. Capito? Scusa, dimmi. Io dopo sono felice tutto, che anziché alzarti... E ho pagato e la signora della posta mi ha detto... Anziché ha detto, fare il maiale, paghi la multa. Guarda che non sei solo... Allora sono parecchie persone che, Gianni, te saluto, te quali... saluto, raccontamelo un'altra volta, fermo, ci sentiamo lunedì ragazzi, ciao. Dai, via, via San Gennaro, dai, ciao, dai, via, toglietela. Arrivederci e come sempre viva la libertà di espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Puccia! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.